Sensi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti, di Leonardo Manera e Daniele Ceva. E allora oggi è San Valentino, seconda puntata di Avanzi di Manera con Leonardo Manera e Daniele Ceva. Buongiorno Ceva, per chi non avesse ascoltato la prima puntata, diciamo che cos'è Avanzi di Manera. È una trasmissione di breve durata, peraltro una mezz'ora, in cui ci occupiamo di alcune di quelle notizie che non vengono trattate normalmente dai giornali, cioè di quelle notizie che rimangono un po' nascoste, sono gli avanzi dell'informazione. E noi ci occupiamo di queste, ma non solo di queste, avrete modo poi di sentire nell'arco della puntata. Per esempio, dopo parleremo di San Valentino, come è giusto che sia oggi, giorno anche della finale di Sanremo, però vogliamo partire con una notizia che riguarda il lavoro. È stato fatto un sondaggio da un giornale inglese che è il Telegraph, e sondaggio che riporta quali sono le scuse che vengono normalmente addotte per evitare di andare al lavoro. Per esempio, al primo posto abbiamo: una lattina di fagioli è atterrata sul mio alluce, cioè io non voglio andare a lavorare, dico perché oggi non vieni, perché una lattina di fagioli è atterrata sul mio alluce. Poi: nuotavo troppo veloce, ho sbattuto la testa sul bordo della piscina. Poi: sono stato morso da un insetto, la mia auto non aveva il freno a mano tirato ed è rotolata giù per la collina contro un lampione, il mio cane ha avuto un grande spavento e non voglio lasciarlo, il mio criceto è morto, mi sono fatto male durante il sesso, sono scivolato su una moneta, ho avuto una notte insonne, la mia mamma è morta. Scusa usata più volte, esatto, dalla stessa persona, cioè dalla mamma. Mi sono bruciato la mano sul tostapane, il cane mi ha mangiato le scarpe, il mio pesce è malato, ho ingoiato l'acqua ragia. Ma perché? Il mio alluce è rimasto incastrato nel rubinetto del bagno. Sono in pronto soccorso con una molletta da bucato sulla lingua. Non è mai capitato? No, come fa a rimanere incastrato? Sì, una molletta non, da non è una cosa proprio lingua. Da pronto soccorso, direi. Ho bevuto troppo e mi sono addormentato sul pavimento di qualcuno, non so dove mi trovo. Questo a lei è capitato spesso? A me, esatto, spesso. Erano gli altri che telefonavano: guardate, è qua, non sa dove si trova. I miei pantaloni si sono rotti mentre stavo venendo al lavoro. Sto utilizzando una nuova soluzione per lenti a contatto e mi lacrimano gli occhi. Ho il naso chiuso. Un problema grosso. Naso chiuso. Ho fatto un disastro con la tintura per capelli. E ho un dito dolorante al 25° posto. Però, diciamo a favore di quelli che ci stanno ascoltando, ci sono alcune scuse che reggono meglio di altre. Per esempio, chi cita influenza intestinale, virus e dolori addominali ha più chance di essere creduto rispetto a chi dice che ha mal di collo, mal di schiena o stiramenti muscolari. Beh, sono consigli per il progresso, no? Della vita, della civiltà. Sì, cioè, quindi insegniamo le scuse per non andare a lavorare. Quindi sappiate che se citate, per esempio, dice ho una gastroenterite, influenza intestinale, potete essere creduto. Se avete mal di colla, ho male alla colla, non posso venire a lavorare. Questo l'abbiamo detto a vostro uso e consumo, sapendo che insomma spesso eviterete, cercherete di non andare a lavorare. Abbiamo anche qualche battuta che riguarda il lavoro, Ceva. Sul lavoro ne abbiamo una di Michael J. Fox, attore americano conosciuto, e ho fatto l'imbianchino per 5 anni. 5 anni. Non pensavo che l'avrei mai finita quella dannata casa. È vero. Questa è la risata. Va bene, ne abbiamo un'altra. Ho finito qui. Ne abbiamo un'altra. Dice di Jerome K. Jerome, insomma, scrittore abbastanza conosciuto. Di Tre uomini in barca. Esatto. Mm. Il lavoro mi piace, mi affascina. Potrei starmene seduto per ore a guardarlo. Questo è un super classico. Infatti la risata è stata da super classico. Ma allora, questo oggi è San Valentino. Cominciamo a occuparci invece della giornata, insomma, di San Valentino. È una notizia che abbiamo da Repubblica.it di qualche giorno fa. E la notizia è questa: si innamora di una suora e la perseguita. Viene assolto perché viene giudicato affetto da delirio erotomaniaco. Cioè, praticamente c'era quest'uomo, un quarantenne bergamasco, che conosceva la religiosa fin da quando era ragazzi. Lei non era ancora suora, poi lei era diventata suora. Lui aveva chiesto al vescovo la dispensa dei voti, che lei non ha avuto. E poi la perizia su questo uomo ha convinto a chiedere l'assoluzione, che è stata concessa. Lei lo denunciato per stalking, ma appunto lui è stato assolto perché è vittima di questo delirio erotomaniaco. Insomma, capita. Sarebbe stato interessante fosse successo al contrario, cioè che la suora è affetta da questo delirio erotomaniaco e inizia a molestare dei fedeli. Però a volte non fare sesso può anche essere una cosa buona, perché per esempio in Venezuela i condom sono un lusso, un pacchetto costa fino a 660 euro, leggiamo qui dal Giorno, da Quotidiano Nazionale. Sì, allora dice che appunto in Venezuela manca tutto, dal cibo alla carta igienica, persino la benzina, occorrono file di ore per comprare un bene di prima necessità. Ora bisogna persino sborsare 660 euro per avere un pacchetto di preservativi. Beh, insomma. Ce l'abbiamo una battuta sulle suore, Ceva? Sulle suore, sì, eccola qui, di Nanni Svampa. Camminavo cantando a squarciagola lungo i muri ammuffiti del convento delle Carmelitane Scalze, quando una scarpa mi raggiunse alla nuca. Bugiarde! Gridai. L'ha capita questa o l'ha letta senza capirla? L'ho letta sulla fiducia e adesso tra un po' la capisco. La dobbiamo dire un'altra volta perché non si è capita, secondo me. Le Carmelitane Scalze sono le suore. Poi una scarpa mi raggiunse sulla nuca. Certo. Quindi bugiarde, perché non sono Carmelitane Scalze. Rimandiamo la risata. Che... Sono Carmelitane ma non scalze. E allora, finendo di parlare per il momento di sesso, insomma, mandiamo invece una telefonata, perché noi ci rivolgiamo anche a voi, e parlando di preti e di suore vogliamo capire se eventualmente voi che ci ascoltate, non sapendo che però in questo momento vi stiamo chiamando, siete favorevoli al matrimonio appunto di preti e o di suore. Vediamo cosa ci avete risposto. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Posso farle una domanda, per favore? Sì. Volevo chiederle, stiamo facendo un sondaggio, se lei è favorevole o contrario al matrimonio di preti e suore, cosa ne pensa? Matrimonio di preti e suore? Sì. non mi interessa, se lo fanno... Lei si è mai innamorato di una suora oppure di un prete? Non so lei se sia omosessuale o eterosessuale. Guardi, non è il momento, non posso parlare. Perché è con una suora in questo momento? Sono con una suora. come si trova sessualmente con questa con suora? Con le suore perfettamente. Buttano via il velo e diventano così sessualmente gratificanti. Grazie. Può dirci solo l'ultima cosa che le chiedo, quanti rapporti ha avuto con delle suore nella sua vita? Un centinaio. Grazie. Arrivederci. Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore, la conosce? Pronto? Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del Sole 24 Ore. Stiamo cercando di capire se le persone sono favorevoli o contrarie al matrimonio di preti e suore. Volevamo sapere cosa ne pensa lei. Io sono contrario. Perché? Giustifica? Non lo so, perché se uno fa una scelta è giusto che mantenga quella scelta lì. Casto, in questo senso. Lei è mai stato attratto da preti o suore nella sua vita? No, sinceramente no, questo mi manca. Avrebbe voglia di provare, adesso non so se lei sia omosessuale o eterosessuale, però insomma, per esempio con una suora cosa la attirerebbe dal punto di... No, con una suora non mi attirerebbe proprio niente. Quindi preferisce il prete? Preferirei al limite, se dovessi scegliere. Il prete, cosa l'attira ipoteticamente della figura del prete? Cos'è? La divisa, il fascino? Non è la divisa del prete, è la figura maschile. Senti, invece rispetto al matrimonio per esempio di militari che sono sempre in divisa? Ma lei è già diversa la cosa. Il pompiere? Anche. Il pompiere può fare sesso, ma con chi? Il pompiere è che può fare sesso. Il pompiere e la suora per esempio? No. Pompiere e prete? Nemmeno. Prete e sottotenente? Bene. La ringrazio. Questo era il nostro piccolo sondaggio. Qualcuno ci ha voluto rispondere, qualcuno no. Non tutti sono disponibili sempre a... Non tutti, manca la fiducia in questo paese. Manca la fiducia, invece dovete avere fiducia, perché noi serenamente, liberamente, senza nasconderci, vi chiediamo delle cose. Voi liberamente potete risponderci oppure no. Anzi, vi invitiamo a parlare a lungo con noi, giusto? Anzi, telefonate voi. Sì, telefonate o scriveteci. Se avete qualcosa da dire, mandate mail, anzi ricordiamo la mail, scriveteci a avanzidimanera@radio24.it. Però siccome parlavamo prima di matrimonio fra preti e suore, ma voglio dire io di matrimonio in generale, dopo il matrimonio è naturale parlare di morte, di morte. Che già nasce nel matrimonio. Perché c'è questa notizia curiosa che riguarda proprio, pubblicata tra l'altro dal giornale pochi giorni fa, riguarda la storia di questa persona che ha raccolto 100.000 necrologi e in 100.000, anzi no, di più, giornalista esamina 2 milioni e mezzo di annunci funebri, ma in tutti questi 2 milioni e mezzo di annunci funebri la morte è citata solo 472 volte, pochissimo. Si evita l'idea della morte, la parola morte, perché si dice che si manca, si scompare, ci si spegne, si lascia un vuoto incolmabile, si vola in cielo, ma non si muore mai. Non si muore mai. E invece, insomma, la morte fa parte della vita, anche lei diceva, chissà quanto le resta, ma non lo so, aspetti che in radio non si vede, quindi ci si può toccare ovunque. Va bene, comunque, anche noi, siccome alla fine la morte fa parte della vita e bisogna un po' esorcizzarla, abbiamo cercato anche qualche battuta che riguarda questo. Per esempio, vediamo se la troviamo. Questa è carina, per esempio. Voglio morire nel sonno tranquillamente come mio nonno e non morire gridando terrorizzato come tutti i suoi passeggeri. Ecco, esatto. Perché faceva l'autista, probabilmente. Ma probabilmente era in macchina. Ah, era in macchina. Aveva degli amici dietro. Io immaginavo che avesse dei passeggeri. O probabilmente era l'autista del pullman che portava dal suo paese. Di dov'è lei, Manera? Io sono di Salò, Lago di Garda. Ecco, esatto. Da Salò a Verona. A Verona. Oppure, ho smesso di comprare cibo naturale quando ho scoperto che l'80% della popolazione muore di cause naturali. Bene, direi che la scelta... Questa è logica, una logica. Milton Berle, la prima era una barzelletta scozzese invece. E allora, siccome bisogna esorcizzare questi problemi, quale modo migliore di farlo se non andando a fare una gita? Però siccome spesso le previsioni del tempo sono sbagliate quando si decide di fare una gita, noi mettiamo le mani avanti. Mettiamo le mani avanti. Evitare polemiche. In che modo le mettiamo? Noi facciamo le constatazioni del tempo, ovvero vi diciamo il tempo che c'è stato e che voi avreste dovuto sfruttare, ma almeno vi facciamo pensare e ricordare. Constatazioni del tempo. Pronto? Pronto, buongiorno, qui a Radio 24, la radio del sole 24 ore. Noi stiamo facendo una... In fretta perché sto lavorando e non... tempo da perdere. Sì, guardi, noi, siccome le previsioni del tempo spesso sono sbagliate, abbiamo una rubrica che si chiama Constatazioni del tempo, cioè chiediamo alle persone che tempo c'è stato il giorno prima. Le chiediamo solo se ci può dire lei ieri dove si trovava e che tempo c'era, insomma. Ieri è Cappertoglio, tempo bellissimo. Dove si trovava? 12 chilometri da Lagna, quindi sul Monte Rosa. Sul Monte Rosa, quindi lei era ieri sul Monte Rosa. Sì. C'era, che tempo c'era? Beh, abbastanza bello? Bello, bello, che oggi è bello, non c'è una nuvola, c'è il sole caldo. Tutto il giorno. Può farci anche una stima della temperatura che c'era, più o meno, come gradi? I gradi sono stati sui 7, 8, 10. 7, 8, 10, quindi mattina all'ombra, bella. All'ombra, mattina bella, fresca, sì. Lei cosa ha fatto durante il giorno, così come... cosa ha fatto? Io sono a casa che taglio legno. Sta tagliando la legna, quindi ha passato tutto il giorno a tagliare le legna. Sì. Taglia la legna per hobby? Per casa. Ah, quindi perché lei ha il caminetto? No, una stufa economica, due stufe economiche in casa. Ma... due stufe che vanno a legno o a pellet? Solo legna. È il rumore della motosega questo che si sente. Sì. Ah. Avanzi di Manera, la rassegna stampa che non ti aspetti. Bentornati a Avanzi di Manera, potete scriverci qualunque cosa abbiate da dire al nostro indirizzo di posta elettronica che è avanzidimanera@radio24.it. Ma Ceva, Daniele Ceva, proseguiamo con le notizie, con gli avanzi di notizie, insomma. Cosa abbiamo, Manera? Oggi è San Valentino, quindi abbiamo trovato questa notizia che riguarda la colonna sonora ideale da utilizzare quando si fa sesso. So che non è una cosa che la riguarda, immagino, neanche a me. Insomma, molto poco, direi, negli ultimi tempi molto poco, però... San Valentino ovviamente si fa la cenetta, gli innamorati e poi si cerca di concludere, insomma, nel migliore dei modi. Non sempre succede. Allora, le canzoni ideali per fare sesso ne vengono citate 21. Noi però diciamo solo quali sono le ultime tre. Al terzo posto abbiamo il Bolero di Ravel. Impegnativo, Impegnativo. Però incalzante. Tra l'altro è lunghissimo. è lunghissimo, tutto il bolero di La Vera, non so quanto può durare, ma... Sì, lei sente le prime 8 battute al massimo. Sono già a posto. Esatto. Poi abbiamo Marvin Gaye, Sexual Healing. Questa qui... Questa è un super classico. Esatto. Ma al primo posto la colonna sonora di Dirty Dancing. Dirty Dancing, chi non ha mai visto il film? Sì, che anche questo è un classico. Io direi che se, essendo San Valentino, riuscite a farlo 3 volte, la prima volta il bolero, poi Marvin Gaye e poi Dirty Dancing. Già col bolero ne avete meno 10 da fare. Sì. Però San Valentino a parte, c'è una notizia secondo cui il 57% delle coppie fa sesso meno di una volta a settimana. Lei rientra in questa casistica? Beh, meno di una volta alla settimana è zero, quindi esatto. Sì, assolutamente. Una persona su 3 è insoddisfatta della propria vita sotto le lenzuola e più della metà confessa di avere meno di 4 rapporti al mese, cioè meno di un incontro intimo a settimana. Pochissimo, è la fotografia scattata dal centro medico Sant'Agostino di Milano in vista della festa degli innamorati. Tra l'altro sembra che solo il 10% delle persone facciano sesso più di 3 volte alla settimana, ma, e qui rientra lei benissimo, Ceva, a galoppare è la fantasia. Il 40% del campione degli uomini dichiara di averle spesso queste fantasie sessuali, con punta del 70% fra gli uomini, e sono loro le persone con i pensieri più caldi a tradurre più spesso in pratica i loro sogni, cioè cercano di hanno dei sogni erotici ma lo fanno poco. Beh, io i sogni erotici di solito li utilizzo un po' da solo nel mio intimo, e comunque è mal comune mezzo gaudio. Che qual devo è, fare? Qual è il suo sogno erotico? Ha un sogno erotico, Ceva? Il sogno erotico non posso dirlo, è molto crudo, quindi non direi, eviterei di farlo qui in radio ad avanzi di maniera. Andiamo avanti, ragazzi. C'era un comico Dado Tedeschi che diceva: il mio sogno erotico è fare l'amore. Vabbè, c'era un'altra battuta sull'amore prima di una succosa telefonata una che avremo tra sul poco. Sesso, una battuta sì. Sul sesso. Beh, mia moglie vorrebbe il sesso olimpico una volta ogni 4 anni. Questo era di Rodney Dangerfield. Allora noi andiamo a sentire fra di voi, fra qualcuno che chiamiamo a caso, se effettivamente rientrate in questo sondaggio, in questa casistica oppure no. Vediamo. Pronto, buongiorno, qui è Radio 24, la radio del sole 24 ore. Signora, buongiorno, posso farle una domanda, per favore? Senta, io stavo riposando. Lei è? Stavo riposando. Ah beh, ma è l'ora giusta per svegliarsi questa signora. Sì, ma senta, io sto riposando, mi dispiace, non posso... Non le porto via tempo, anzi vedrà che la mia domanda favorirà la continuazione del suo riposo, signora. Che cosa desidera? Allora, è solo questo. Noi siamo qui a commentare un sondaggio secondo cui le coppie sposate più rimangono... Io sono vedova, buongiorno. Pronto? Pronto, buongiorno, qui a Radio 24, la radio del sole 24 ore. Posso farle una domanda, per favore? Un sondaggio stiamo facendo. Sondaggio? Di che genere è? Allora, il sondaggio è questo. Sembra che le coppie più rimangono a lungo sposate, meno fanno sesso. Quindi si fa Io sono celibe, quindi non so come risponderle. Non è mai stato sposato? No, mai. Però ha avuto delle convivenze? No, qualche volta, ma non posso dare altre spiegazioni. Guarda, sono cose che riguardano la privacy di una persona. No, ma non era riferito a lei, no. È solo una sua opinione riguardo a questo. Non le stiamo chiedendo le sue cose della vita privata, personale. No. Vogliamo Vabbè, sapere... Se lei... Io non posso darle nessuna risposta, mi dispiace. No, intendo guarda, dire che non sto chiedendo a lei... D'accordo, la sua esperienza personale. Non sono in grado di dire quello che lei no, mi sta chiedendo. Volevo solo chiederle un'opinione, secondo ma lei... L'opinione di che cosa? Adesso se me la fa esprimere glielo dico. Rispetto alle persone sposate, cioè se una persona, non lei perché non è stato sposato, ma in generale, se la coppia sposata più rimane a lungo sposata, meno fa sesso fino a non farlo completamente. Ma questo non ho esperienza, quindi non le posso rispondere a questa domanda. Ma avrà degli amici sposati? Ma non faccio queste domande io, perché fanno parte della privacy di una persona, le torno a ripetere, sì, mi dispiace. No, mi scusi. No, adesso mi scusi, nel senso non è che va a cena così con degli amici e chiede... Ma guarda che lei sta insistendo, le sto dicendo che io queste cose qui non le ho mai chieste ai miei amici. Ma è normale, si va a cena. Va bene, è normale. Per cortesia, puoi interrompere che io ho da fare. No, dicevo, si va a cena e si chiede lei da quanto tempo non fa sesso con sua moglie. Con nessuno, io vado con gli amici e basta. Ma sono argomenti di naturale. È inutile che insiste. No, non voglio insistere. Per cortesia, interrompa sta trasmissione. Volevo solo dirle, insomma, è normale, si dice tu sei sposato, quante volte fai sesso? Non so rispondere. Una volta. Guardi, allora, metto giù. No, le chiedo solo un ultimo favore. Potrebbe andare, dopo basta, lascio andare, anzi la ringrazio per la sua gentilezza. Potrebbe andare da un amico sposato e chiedergli quando è l'ultima volta che ha fatto sesso, per favore? No, non posso chiedere perché fa parte della privacy. Una signora non torna a ripetere, non ne voglio sapere. Vabbè, ha capito? Vabbè, però... L'ha capito o non l'ha capito? No, l'ho capito, però insomma... E allora, siccome dopo San Valentino, dopo aver fatto l'amore, magari si mangia, noi vogliamo concludere con una bella notizia, che è proprio quando si dà la buona notizia, classica. Esatto, no? Chiudiamo con la speranza. Ruba una pizza, la paga con gli interessi 13 anni dopo, è successo negli Stati Uniti. Un uomo entra in una pizzeria takeaway e fa un ordine di $20. Al momento di pagare è svanito con le pizze. Ma nel 2015, nella stessa pizzeria, arriva una lettera. Dentro c'è un assegno di $54 e un lungo messaggio di spiegazioni e scuse. Quindi dobbiamo essere ottimisti, perché le persone, anche quelle che apparentemente, come lei, sono persone spiacevoli, di cui insomma noi sospettiamo sempre di tutti, Manera, soprattutto lei è uno che sospetta di tutti, non presta neanche le lire ancora, non le presta. Però vedi, questo ha rubato una nel pizza. Nel 2002 l'aveva rubata e nel 2015 l'ha pagata. Secondo me è pazzo, però va bene. Era un uomo che aveva difficoltà economiche e poi è diventato, invece si è ripreso da queste difficoltà, è diventato imprenditore e ha restituito il prezzo della pizza, il costo della pizza con gli interessi. E bravo. Adesso ha una pizzeria. No, non lo so. Però dopo la pizza cosa si faceva? Mentre sesso, si mangia, no, la pizza. No, quello già fatto. Ecco, lì abbiamo già si fatto. Guarda la TV. Si guarda la TV, certo. Tristemente si guarda la televisione. Stasera c'è la finale di Sanremo, so che tutti guarderete la finale di Sanremo, ma invece Daniele Ceva ha delle idee anche diverse. Io tendo a proporre nuovi format più interessanti rispetto agli attuali ai produttori televisivi. Questa volta proporrei un reality diciamo dedicato. Aspetta che facciamo le idee di Daniele Ceva, che okay. Si propone oggi. Appunto, un reality dedicato ai più piccoli, ai bambini. Bello. Che si chiama Animali da colorare. Oh, finalmente una cosa adatta ai bambini. Com'è, esatto, questo reality? Sono 12 bambini, ognuno con un pennarello colorato in mano, chiusi dentro questa stanza con una tigre viva. E devono colorarla, ovviamente. E chi vince? Vince l'ultimo, cioè, chi rimane vivo. Chi resta vivo. Chi resta vivo, esatto. Saranno contenti i genitori? Ma qualcuno secondo me sì. Qualcuno sì. Va bene, noi vogliamo terminare questa puntata con un altro avanzo, non un avanzo di notizie, ma invece con un avanzo di cultura, perché molti conoscono le poesie dei poeti più noti, ma pochi conoscono le poesie, giustamente ovviamente, dei poeti meno noti. Come quindi presente, noi le prendiamo, li portiamo alla ribalta. Le portiamo alla ribalta. Questa è una poesia, si chiama Paola Capobianco. Paola Capobianco. Abbiamo una base per una poesia, adatta a una poesia, lo chiediamo qui a Pietro Lacorte. Il Bolero di Ravel. È assolutamente impreparato, si stava facendo... Niente, stava guardando... Infatti, delle fantasie erotiche sul computer. Eccoci. La poesia di Paola Capobianco, noi non la vogliamo giudicare, la leggiamo e basta, si intitola Verrà. Verrà. A volte... Ha a che fare col sesso? No. No, no. Okay. A volte, quando si vive, un po' si muore. E quando si muore un po'... Si vive. Forse, credo, ma... Non lo so. Non so dov'è. Mi aspetto di rivederla. Chi? Quantomeno per dirmi come sta, dove si trova. Sicuramente verrà. Beh, speranza, c'è, cioè, speranza. È speranza, Manera, senza speranza. Non lo so, questa era la poesia di Paola Capobianco. Verrà. Ringraziamo Pietro Lacorte in regia, il nostro coautore Marco Del Conte, Guido Scotti. Buon sabato e buona domenica. Ciao!